Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, negli ultimi anni è emerso in modo evidente l'impatto sulla qualità dell'aria della combustione di biomassa, legno, pellet e quant'altro. In particolare questi combustibili, che hanno il vantaggio di essere pressoché neutri dal punto di vista delle emissioni di CO2, emettono però molti inquinanti, soprattutto il ben noto PM10, cioè quella frazione del particolato con dimensioni inferiori ai 10 millesimi di millimetro. Per dare un'idea delle dimensioni, diciamo, del problema, basti dire che un vecchio camino tradizionale, di quelli di una volta aperti, produce più o meno le stesse polveri sottili di 2500 caldaie a metano. Il camino aperto però ha una combustione pessima. Le più moderne stufe e caldaie a biomassa, a patto che siano di alta fascia, hanno una combustione molto migliore, che può ridurre queste emissioni quantomeno di un ordine di grandezza. La sostituzione quindi di apparati vecchi con quelli nuovi potrebbe dare una mano a ridurre l'inquinamento da biomassa, e questo ragionamento naturalmente non è sfuggito a Dial, l'associazione che riunisce i produttori di pellet e di apparati per la combustione della biomassa, che per spingere in questa direzione ha proposto un sistema di certificazione volontario che appunto permette ai consumatori, diciamo, di riconoscere a colpo d'occhio gli apparati meno inquinanti. Ne parliamo con il direttore tecnico di Dial, Walter Francescato. Buonasera Francescato. Buonasera Melis. Senta, allora, ci spieghi brevemente come funziona questo sistema di certificazione che si chiama Aria Pulita, giusto? Sì, si chiama Aria Pulita, è uno schema di certificazione con il quale i generatori vengono classificati in base ai fattori di emissione che riguardano appunto anche il particolato primario, ma anche il monossido di carbonio, gli ossidi di azoto, il carbonio organico e il rendimento. Quindi sono gli stessi parametri che, diciamo, sono stati introdotti anche dal regolamento Ecodesign, che entrerà in vigore fra qualche anno. È un sistema che attribuisce delle stellette ad ogni apparecchio, no? Da 1 a 5 stellette, corretto? Esatto, è un sistema di classificazione ambientale dei generatori domestici a biomasse, che riflette una classificazione appunto che è stata messa a punto da un gruppo di lavoro costituito dalle regioni del bacino padano presso il Ministero dell'Ambiente. Quindi noi, con il sistema, diciamo, di certificazione Aria Pulita, abbiamo sposato totalmente questa classificazione. Okay. E l'obiettivo nostro è renderla ovviamente fruibile, diciamo riconoscibile in maniera molto chiara e semplice all'utente finale. Ecco, dicevamo che le stellette sono da 1 a 5, per capirsi. Oggi con 5 stelle non c'è quasi nulla. Le 5 stelle sono estremamente sfidanti ed è una classe che è stata pensata un po' per il futuro. Okay. Anche se, devo dirle, ci sono alcune caldaie domestiche, ad esempio a pellet o a legna, che raggiungono già prestazioni, diciamo, delle 5 stelle. Che rientrano in queste 5 stelle. Ecco, sì. Quali sono le emissioni, diciamo così, di una di queste stufe a pellet 4 stelle, quindi il massimo che si trova oggi sul mercato? Una stufa moderna pellet 4 stelle ha un'emissione di polveri, diciamo, inferiore ai 20 mg normal metro cubo al 13% di ossigeno di particolato primario, appunto, che significa, in termini di fattore di emissione, ovvero in milligrammi megajoule, siamo intorno ai 13, quindi inferiore a 13 milligrammi megajoule. Perfetto. Di particolato. Ecco, questo per correttezza bisogna dirlo, una caldaia a metano produce circa 0,2, giusto? Di sì. Questi, quindi c'è ancora una differenza sostanziale di 60-70 volte le emissioni. Però rispetto agli altri apparati l'abbattimento sarebbe notevole se si adottassero queste tecnologie. Quindi in una logica di sostituzione di vecchi apparati il beneficio sarebbe indiscutibile, diciamo. Se invece parliamo di sostituire una stufa a metano con una pellet, a livello di emissioni, le emissioni saranno molto più alte anche con una 4 stelle. È indubbio questo. Naturalmente è importante anche considerare, diciamo, la qualità del particolato emesso da questi generatori. Alcuni studi sia dell'Università Tecnica di Graz ma anche dell'ETH di Zurigo hanno dimostrato negli ultimi anni che più spingiamo sulla qualità della combustione, più il particolato primario emesso è povero di composti carboniosi organici, quindi è composto sostanzialmente da sali minerali. Una frazione inorganica, da sali minerali sostanzialmente, che hanno un effetto di tossicità sulle cellule polmonari, diciamo, estremamente, diciamo, limitato. Beh, senza dubbio, per loro natura queste micro e nanopolveri possono avere le composizioni chimiche più disparate e c'è molto quindi da capire ancora sui loro effetti. Francescato, diciamo invece che paradossalmente le grandi centrali a biomassa su cui si accaniscono i comitati del no sono le più sicure perché hanno dei sistemi di abbattimento molto efficienti. E proprio domani cercheremo di capire se alcuni di questi sistemi possano finire a bordo anche di apparati più piccoli come stufe e caldaie che teniamo in casa. Grazie per intanto e buonasera. Buonasera a lei. È tutto, a domani.